oligopolio finanziario mondiale prende di mira i paesi che non hanno prospettive di crescita e uno a uno li attacca. E quindi adesso si stanno preparando ad attaccare a noi. Ripeto, con un governo che fa una politica di questo tipo, mentre sta crollando il Titanic, si affonda, vedi gli iceberg, e fa le finanziarie a colpi di emendamenti, si riunisce ad Arcore invece che al Consiglio dei Ministri per fare una cosa seria, ma ragazzi, ma che idea dell'Italia, non parliamo dell'opposizione, che ha 40 idee diverse, che non si riesce a fare un coordinamento, non riesce a fare un documento unitario, ma dico, ma purtroppo la mia generazione ha passato tutta la vita a cercare di smascherare e falsificare quelli che dicevano che l'Italia erano solo pizza e mandolini, ma quando si assiste alle cose a cui si assiste in questi giorni, che in un mese non hanno fatto la manovra, accidenti, ma ci meritiamo tutto. E dato che se crolliamo noi crolla l'euro, il Wall Street Journal, Financial Times, anche se hanno dietro di sé quell'oligopolio finanziario di cui parlavamo prima, hanno tra ragione. Però non c'è forse la sensazione che tanto comunque ci salverà la Banca Centrale Europea? Ma ragazzi, ma la Banca Centrale Europea non salva nessuno. La Banca Centrale Europea sta distruggendo anche la Germania, perché non puoi crescere in un deserto. Il commercio mondiale sta lentamente, anno dopo anno, da 4 anni a questa parte, scendendo. Vuol dire che anche la Cina ha smesso di crescere, cresce sempre meno. La Germania nell'ultimo trimestre è cresciuta solo dello 0,6. Ma chi vuoi che salvino questi? E lei chi salverebbe di tutte le istituzioni economiche, politiche che ha visto all'opera in questi... Guardi, cioè qualcuno le sarà piaciuto? Sarkozy manco glielo chiedo, perché se poi... Ma lascia perdere, per favore, non parliamo di cose serie e di persone serie. Io dico solo questo, da vecchio storico dell'economia e da uomo vecchio che ormai aspetta solo la morte. Beh, adesso questo, pelle, che il mondo, non è che mi si cambia la burana. Che il mondo, vengo dalle tenebre, che il mondo funzionava molto meglio quando non era governato dagli economisti. Quando non senza era? Non era. Fondo monetario internazionale, senza Banca Mondiale, senza Bird, Beer, Bar. Guarda che il mondo funzionava meglio, la crescita c'era.